E buonasera, buonasera, esseri stellari all'ascolto. Questa è la 14esima, forse 15esima, non lo so, puntata di Lezioni Universali di Esistenza. Bentornate, bentornati. Allora, come sempre è tutto un accrocchio, perché mi sono dimenticato a casa tutto, tutti i file, tutto quanto, quindi sto un attimino riassestando. Però tutto funziona, quindi benvenute, benvenuti all'ascolto. Ci sono un sacco di persone assieme a me questa sera e ve li vado a presentare con ordine di... come facciamo? Di apparizione, come nei film di un certo spessore. Ma come mai non fai il tuo microfono, cazzo? È importantissimo, stai dicendo le cose fondamentali, dopo ci riproviamo. Sì, sì, è indiscutibilmente on, quindi il problema è altrove, ora lo risolviamo. Sì, sì, sì, ci sei. Poteri forti. E infatti, maestro, buonasera. Maestro... Buonasera. Buonasera. E ancora una volta siamo qui a soffermarci su queste quisquiglie come i saluti, il tempo, e invece dovremmo sicuramente soffermarci su dell'altro, direi, e per fortuna che non siamo soli stasera. Non lo siamo perché insieme a noi c'è il grande ritorno, lo desideravate in molti e infatti è qui con noi, dell'altro maestro, dell'altro astro che ci sta illuminando la strada del futuro, è il maestro Ricky Gianco. Bentornato maestro. Quella, buonasera a tutti. Secondo me non funziona un cazzo, ma parlavo il mio, nel dubbio parlavo il mio. Per adesso. Non si sente, buonasera a tutti. Buonasera caro maestro. Buonasera. No? Siamo dei soli. Ma non siamo soli, perché ci sono con noi degli altri astri, se mi permetti di rimanere nel gioco di parole e pindareggiare così, perché insieme a noi tornano dal Dipartimento di Ufologia e Scienze Alienistiche, professore di solaristica e il suo assistente. Bentornati, bentornati. Buonasera. Buonasera a tutti e a tutte all'ascolto. Buonasera, è un privilegio avervi con noi, grazie, davvero grazie. Ne avete ben d'onde. Come un segnale dallo spazio, siamo arrivati qui con perfetta puntualità. Allora, però non siete venuti soli, perché per l'occasione oggi c'è insieme a voi qualcuno. Sì, in quanto... Allora, aspetta, scusami, è molto importante questo momento e allora provo un attimo a alzare il volume. Dicevo, in quanto membro anziano del Dipartimento, mi riservo l'onore di presentare il mio esimissimo, esimerrimo, esimio, massimo collega, che è un visiting professor da Agartha. Grazie, buonasera, buonasera, buonasera a lei professore, buonasera a tutti, sì, sono io. Vengo da Agartha, ecco, non so se la conoscete. Si sente dall'accento un po', secondo me. Sì, sì, palesemente da Agartha, sì, sì, più o meno l'accento è quello, diciamo. L'ingresso è dal deserto dei Gobi, ma poi diciamo che l'entroterra è nella zona della campagna fiorentina. Sì, sì, limitrofa, sì, sì. Agartha è una città ampia che racchiude molti sogni, molte anime e soprattutto molta storia.

Questo vuoto mi ha fatto porre delle domande, mi sono posto degli interrogativi, ho cercato di venire a capo di questa cosa, perché sentivo un vuoto in quella zona? E poi ho fatto dei sogni, e poi ho avuto delle visioni. Io sono sicuro che sono morto trafitto da una lancia che mi ha trafitto al di sotto del costato. Comunque la morale è non trattate male le persone che poi si incazzano, no? Sì, sì, è quello che volevamo dire. Un perché? Perché? Ma che vuol dire perché? Ma io ti dico perché, perché? Per esempio, non ha nessun senso perché, per come, per... cerchiamo di vivercela tranquillamente, in maniera, come dire, di trovare delle soluzioni abbordabili. Io parlo di questo, soprattutto di soluzioni abbordabili. Etere, materia sottile, qualcuno usava il nome Akasha. Ma c'è un punto a questo discorso? Sì, però lo decido io quando arriva. Siamo lontani dalla verità. Continuo a godere. Dispiace un attimo per il visiting professor, insomma, questo approccio così diretto, però tutto sommato veritiero, e a differenza di quello che dicevo nell'ultima parte della registrazione, siamo abbastanza vicini invece alla verità, un po' di più quantomeno di quando abbiamo iniziato, direi. Sì, direi anch'io, caro maestro, direi anch'io. Allora, più tardi magari comunque mando anche il riassunto, perché ho anche quello di quando il Dipartimento di Ufologia e Scienze dell'Inizio è venuto a parlare con noi del professor Biglino. Cioè, certo. È molto bella quella puntata. Vedo che annuisce il visiting professor. Sì. Siamo amici di famiglia con il professor Biglino. Ah, molto interessante. Molte volte viene a trascorrere delle vacanze nella nostra casa a Lemuria, non so se conoscete come zona. Sì, sì. Certo. Giochiamo spesso all'albero della cuccagna, queste cose qua, e facciamo delle ritualità. Ma non credo che celebri il Natale, però, uno come Biglino. No, giusto? Lui celebra qualsiasi festività, indifferentemente. Dipende dai periodi, ecco. È un trasformista, diciamo. È una persona molto aperta. Il professore di solaristica, che ricorda di grandi esperienze col professor Biglino, è sbalordito di fronte a questo. Ricordo di aver visto diverse volte il professor Biglino sotto Natale in costume da rettiliano. Sono ricordi che ha provato a cancellare, professore. E invece come va il dipartimento? Di cosa vi state occupando recentemente? Vi sono nuovi campi di interesse nei quali state approfondendo i vostri... Ultimamente siamo stati contattati per degli scavi archeologici. Pare che ci sia, come dire, sia giunta un'evidenza incontrovertibile della presenza di un'astronave aliena sotto Piazza Santissima Annunziata, e per cui stiamo cercando di ottenere tutti i vari permessi e visti da parte del comune per... Non scoperta durante i famosi scavi che la lastricarono di vetro. No, per... scoperta ma occultata, chiaramente. Ah, certo. E siccome noi del DUSA siamo parresiasti e amici della verità, stiamo cercando di portare finalmente alla luce. Amici della verità. Amici avete della verità. Il suo numero? Bene, bene, molto bene, ma invece, caro maestro Ricky Gianco, noi siamo onorati di averla diverti, dai, ti diamo del tu qui con noi, perché sei anche tu un, come dire, un seguace, corretto, del sì. Maestro Roll? Sì, assolutamente sì, personaggione. Mi si sente? Sì, sì, sì, indiscutibilmente. Oh, sì, Roll another one. Sì, io infatti avevo una domanda sul Roll subito, che mi è stata in qualche modo, come dire... anticipata dal saluto. No, più che anticipata, passata, introdotta dal maestro Ricky Gianco. Ma è una domanda per il nostro visiting professor, in quanto, come dire, esperto sull'argomento, no? Ma Allora, sviamo ogni dubbio, se ce ne fossero, io ne ho in effetti, quindi cerchiamo di sviarli se vanno sviati oppure no, non lo so. Non ha a che fare per niente con le cartine. Assolutamente no. Ok. Sì, professore, noi iniziamo così di solito, con delle domande particolari e specifiche sull'argomento del quale poi chiediamo di fare tuttavia un'introduzione per i profani che ci ascoltano o che conducono. Perché la verità va servita con il contagocce. La figura di Roll è troppo magnanima, è troppo gigantesca. Se una persona subito ci si inserisce sull'argomento, si rischia di disturbarla. Ecco, del resto lo stesso Roll, parleremo prima o poi durante i suoi esperimenti, iniziava sempre con piccolissime manifestazioni delle sue grandi capacità per poi arrivare allo Zeit. Professore, va bene, insomma, non vorrei essere... Sì, non si figuri, cioè, si figuri. Il capo dipartimento mi sta guardando malissimo, non vorrei... Sono capo dipartimento. Lui è capo dipartimento, io professore. Vorrei capire una cosa, ma si parla di manifestazioni, ma cioè lei ha detto manifestazioni appunto come termine, ma se dovessimo andare, come dire, a cercare di dare una definizione a queste manifestazioni, che non sia né troppo particolare né troppo generale, quale sarebbe? È difficile, perché lo stesso professor Roll, dottor, professor, aveva tanti appellativi, lui stesso aveva difficoltà a definire queste sue manifestazioni. Molto spesso le chiamava esperimenti, molto spesso le chiamava processi, molto spesso le chiamava semplicemente delle, appunto, manifestazioni dello spirito. Quindi possiamo dire esperimenti, processi. Possiamo dire che per la vulgata, per il popolo scettico, erano dei poteri. Ecco, lo stesso Roll detestava questa parola tantissimo, perché lui era convinto di non avere poteri. I poteri non esistono, secondo lui. Lui era esclusivamente un tramite, poi ne parleremo dopo. Ma erano delle manifestazioni di poteri che ovviamente contrastavano ed erano in contrasto con le capacità fisiche odierne, ecco. Professore, collochiamolo un attimo nella sua epoca, nel suo luogo, diamogli un attimo... Sì, Roll nasce all'inizio del 1900, è una figura che, diciamo, ha interessato tutto il Novecento italiano, perché appunto è nato nel 1901 ed è morto nel 1994, e quindi diciamo che ha interessato lo scorso secolo. Possiamo dire che ha iniziato a manifestare i suoi poteri, appunto, all'inizio degli anni 30, anche se è esploso come personaggio pubblico dagli anni 50 fino agli anni 60, e da lì è stata un'ascesa di questo meraviglioso personaggio. Diciamo che comunque secolo scorso, quindi una persona anche molto vicina a noi, che si è inserito anche in una storia e in un ambiente che per lo mondo dell'occulto e dell'esoterismo era molto critico, specialmente in Italia, a causa di certi personaggi dubbi e mistificatori. Vogliamo subito fare dei nomi? Io eviterei, perché sono tranquillo stasera. Sono buono, sono magnanimo, ho una bellissima bevanda di adenocromo qui accanto a me e non vorrei fare certi nomi perché potrebbe partirmi la botta, almeno magari più avanti. Qui c'è, sentite, questo è il mio vrill che sta scotendo, però magari più avanti. Peraltro noto che il collega, nonostante la vicinanza anagrafica, ha una carnagione decisamente migliore della mia, per cui forse gli antichi soli che illuminano il centro della Terra fanno bene al il vero sole, il pallore di chi frequenta. Voglio dire una cosa, voglio dire una cosa: il Caraffitti colpisce anche Agartha, ma lì ne vale la pena. Allora ci facciamo una visita al più presto, organizziamoci. Il Dusa, come sempre, organizza Erasmus e tirocini nella città perduta di Agartha. Come sempre, ricordo questa possibilità agli studenti e le studentesse che volessero provare a partecipare. I criteri sono molto selettivi, naturalmente, ma vale la pena tentare. Ricordo che, fra l'altro, assumevate, insomma, per scontato il fatto che la responsabilità di quel che può capitare sia di chi si cimenta in questa impresa. Volevo sapere, negli ultimi Erasmus, quanti ne sono tornati? di quelli che avete mandato insomma in Erasmus. Lei ha tirato effettivamente in questione un punto molto importante, cioè che il TUSA è ferratissimo dal punto di vista legale. Abbiamo uno statuto che è composto da 7652 pagine che ci proteggono da ogni singolo cavillo, che include uccisione e disintegrazione da parte di ciclopi fino a Afrit che possono bruciare i vivi i nostri... disintegrazioni mediante laser quantistici, cioè, eccetera, eccetera. Sì, sì. E comunque cadute in buchi neri. Ogni sacrificio per la scienza può essere fatto. Valido. Bene. Maestro Li Qijian, così scusi. Sì, sono stato inghiottito da un buco nero, scusate. Ma se stai bene, ti lasciamo tranquillamente lì. Sto vagando nel nulla. Avanti tutta se... Ed è bellissimo. La singolarità. La singolarità. Chissà se tornerà con delle verità. Nel frattempo, tuttavia, allora, andiamo con questi esperimenti. Di cosa, maestro, sì? Io avrei una domanda, prima di ritornare sugli esperimenti, che anche a me interessava in realtà molto come aspetto. Vorrei un attimo capire dove è nato? A Torino. Ok. Torinese, vissuto a Torino. Morto a Torino. Cresciuto a Torino. Sì, poi in realtà ha girato anche... varie parti d'Europa, ecco, ha uno stretto legame con la Francia, specialmente in un suo periodo, diciamo, molto particolare della sua vita, però sì, diciamo che ha esercitato quasi sempre a Torino, nello stesso posto, tra l'altro, casa sua, via Silvio Pellico 31, noi organizziamo anche dei pellegrinaggi per chiunque volesse andare a pregare davanti al luogo dove il dottor Roll ha eseguito queste magnificenze astrali, diciamo. Mi iscriverò. Certo, ma, sì, ma, no, ma non si preoccupi, ma lei passa così. Così. Torino città magica e di magia parliamo quando parliamo di Augusto Adolfo Roll. No, attenzione, no, mai così. Associare la magia al dottor Roll. No, no, ma si figuri, al limite si può fare una qualche decelebrazione, se vogliamo. Se posso un bacchetto, davvero ci terrei. Però sì, diciamo che parlare di magia è un po' fuorviante, perché si torna sempre lì. Per il volgo è necessario usare la parola magia, perché era questo che in sostanza faceva Roll. Faceva delle magie, ma in realtà lui aveva un contatto con una spiritualità elevata. Le sue non erano magie, le sue erano la manifestazione dell'etere, dello spirito divino che attraverso la sua figura si manifestava in quanto entità prorompente. Accidenti, parole poetiche, maestose per un personaggio che deve essere necessariamente all'altezza di quanto viene detto qui nel presentarlo. Allora, ne vogliamo raccontare qualcuna di... Beh... Partiamo come faceva al solito Roll, che lui durante le sue serate, perché diciamo che le serate si sviluppavano così, invitava personaggi di alto spessore, infatti lui ha stretto contatti e amicizie con personaggi del calibro di Fellini, Zeffirelli, giornalisti come ad esempio Remo Lugli, anche vari parapsicologi dell'ambiente parapsicologico di Bologna dei tempi. E le serate in realtà iniziavano in un modo molto conviviale, si mangiava qualche pasticcino, si beveva qualche champagne, lui faceva molto il piacione, era molto un golosone, era questa la cosa molto bella di Roll, era un personaggio molto umano. E poi piano piano, quando sentiva che l'armonia degli ospiti, degli invitati, era allineata con le sue esigenze, ci si spostava al tavolo ed iniziava con dei piccoli esperimenti che riguardavano carte. Questo è ciò che ha mistificato molti scettici a pensare che lui potesse essere in realtà un semplice illusionista prestigiatore, perché effettivamente di quello si tratta. Una carta che cambia seme o che cambia colore, carte che si trasmettono da un mazzo a un altro, carte che vengono poste a faccia all'insù nel mezzo di un mazzo e che scompaiono magicamente, ma il dottor Roll tutto questo lo faceva in modo sincero. Le manifestazioni che Roll con le carte eseguiva erano le rappresentanti appunto di questo spirito intelligente che permea l'universo, e quindi tra le varie cose principali che Roll eseguiva c'era appunto questi esperimenti con le carte. carte che cambiavano seme, appunto. Ecco, professore, ma sappiamo di quali esperimenti, di quali esperienze si parla? Beh, c'era appunto, ne parlavamo prima durante la nostra seduta meditativa con il qui presente. Una delle più affascinanti ce la riporta Federico Fellini, quando Roll gli dette una carta in mano, dicendogli: mi raccomando, Federico, non guardare assolutamente questa carta. La carta gli aveva fatta vedere precedentemente, mi sembrava che fosse un 9 di picche. Ovviamente Fellini, spinto dalla curiosità, solleva la carta che aveva in mano, perché non si poteva fare altrimenti, e assiste ad un evento sconcertante. I picche si liquefanno. È come se si decomponessero lentamente. La carta rimane solida, ok, nella sua forma rettangolare, ma il contenuto cambia. In questo gioco di colori, Fellini ricorda anche questi odori, queste sensazioni tattili nel vedere questi semi e questi numeri che interagiscono tra di loro in questa forza cosmica primordiale, per poi prendere piano piano forma. Dopo la decomposizione c'è la creazione, dopo la distruzione della materia c'è la ricostruzione, e questa materia, di questi picche e di questi nove che si mischiavano tra di loro in un afflato quasi di morte, prende vita in una figura di una donna e in un cuore. E davanti a Federico Fellini il 9 di picche si trasformò in una donna di cuori. Questo era l'impatto di Roll. Non era il classico pesca la carta che ti ho fatto vedere prima, che era un 6 di fiori e si trasforma. No, era una trasformazione papale, percepibile anche da un punto di vista sensoriale. Ci rendiamo conto dell'enormità di quanto sta venendo detto, quindi dobbiamo sicuramente prenderci un secondo. Saliamo con la base. Maestro Ricky Gianco. Wow, sono emerso dal buco nero e vi invito tutti, venite lì, si sta troppo bene. C'è anche Augusto. Maestro, c'è anche Augusto nel buco? Sono tutti qui. Beh, ma una domanda. È raccontata dal Fellini questa storia? No, in realtà questa storia è stata raccontata da Dino Buzzati, perché anche Dino Buzzati era un grande appassionato di Roll. Anzi, sembra che tra i primi articoli che abbiano portato Roll a conoscere, insomma, la figura di Roll al grande pubblico, ci sia proprio uno di Dino Buzzati. E ovviamente la poeticità di Dino Buzzati ha contribuito a rendere ancora più affascinante questo racconto. Però sì, è molto interessante, tra l'altro, per chiunque volesse approfondire la figura di Roll, lì non ci sono problemi, perché libri, articoli, interviste, ce n'è di tutti i colori, di personaggi molto affidabili e, se permettete, dall'alto della mia conoscenza, di personaggi molto più viscidi, se possiamo dire, molto più scettici, che si azzardavano a criticare il dottor Roll con delle proposte, con delle ipotesi che veramente... Beh, che cosa ne dice, professore? Anzi, direttore. Io volevo fare una piccola glossa al racconto e alla testimonianza metafisica della trasformazione del 9 di picche in una donna di cuori. Cioè, che io ricordo un esperimento altrettanto travolgente, quando io mi trovavo ospite dal dottor Roll e gli chiesi di provare a indovinare il colore delle mutande di mia moglie. Ed egli rispose rosso, sbagliandosi, perché mia moglie girava sempre senza mutande. Però posso dire una cosa: conoscendo le attitudini di con mia le moglie, femmine, no, col dottor Roll, è probabile che l'abbia dato una risposta sbagliata apposta. Ma per la galanteria o per un tentativo di flirt? No, perché forse le mutande non presenti di sua moglie l'aveva già viste in un'altra sede. Attenzione, attenzione. Professore, quanti anni ha? Mi scusi. Io precedo ogni tipo di nascita di sistemi di conto. Qualsiasi calendario. Ma gli adotta un calendario lei, professore, di qualche tipo, così? No. È rimasto fermo al mesozoico il professore. Ci sta bene, probabilmente. Quando si dice, no, i mammut io ho la coda. Io ho la coda, non la vedete, ma io ho la coda. Ah, eccola. Bene, io comunque invece ne voglio ancora un esperimento, per favore. Beh, tra i più classici esperimenti sicuramente c'è quello raccontato anche da un personaggio che ho paura a raccontare il suo nome qui, Piero Angela. Ovviamente che lui ci ha costruito tutta una base scientifica per cercare di decostruire la figura di Rolf fallendo miseramente, ma racconta di questo interessantissimo avvenimento, di quando il professor Roll stava tranquillamente parlando del più e del meno, filosofeggiando con gli ospiti, tra cui anche lo stesso Angela, che sì, ha assistito a un paio di serate a casa di Roll, e a un certo punto il dottor Roll si ferma e pronuncia una frase, della quale, perdonatemi, non mi ricordo, una frase plateale, e dice: scaffale numero 3, perché lui aveva una grande biblioteca, libro numero, non mi ricordo quale, pagina 47, cercate. I presenti vanno a cercare e in quel libro, a quella stessa pagina, c'era esattamente quella parola. Ora, voi direte, vabbè, ma è un libro di Roll, lo avrà letto, sicuramente se lo ricorderà. Sì, ma tra la libreria sterminata di Roll, ricordarsi proprio quella specifica frase, che tra l'altro non era neanche una citazione famosa, era una frase di raccordo, è incredibile. Questo si chiama lettura dei libri, chiaroveggenza, diciamo, che si applica alla lettura di un libro. Professore, io mi svolgo un po' un ruolo anche qui e chiedo, ma non è possibile che invece prevedesse che il professor Angela avrebbe proferito quella frase e quindi preventivamente avevamo memorizzato esattamente quella pagina con quel riferimento? Assolutamente no, c'è uno scettico qua. Mi sa che... mi faccio l'autore di una vulgata comune che comunque potremmo anche tranquillamente volendo, professore. No, però fa bene perché... giustamente gli scettici vanno contrastati, dobbiamo smettere di evitare il confronto e combatterli a viso aperto per una buona volta. Certo, ci sono casi di prestigiatori che riescono con dei trucchetti a fare, ad ottenere ciò, ma Roll non era esattamente così, anche perché che memoria doveva avere il professor Roll se Angela e gli altri ospiti sono arrivati circa verso le 21 a casa e questa predizione è stata fatta verso mezzanotte e mezzo, perché questi esperimenti, queste serate di Roll continuavano anche fino all'una, alle due, alle tre di notte. Roll non aveva mai preso quel libro in mano, quindi potete capire che il confronto non regge. Ecco, professore, un'ultima domanda sulle fonti. Pur premesso che per noi sono autorevolissime fonti come il canale YouTube di Red Ronnie, volevo sapere... quali sono, oltre a Buzzati e i passaparola? Ma lei mi chiede delle fonti proprio specifiche, allora, molto interessante. Cioè, cosa fa sì che non sia, dopo tutto, un passaparola ingigantitosi nel tempo? La varietà di testimonianze delle persone che sono state presenti a quell'evento. Personaggi come Remo Lulli, che ha scritto varie biografie sul professor Roll, o a mio avviso la più interessante antologia di Franco Roll, che era cugino di Gustavo, del dottor Roll, perdonatemi, e che ha assistito a vari suoi esperimenti e che ha fatto un'antologia in tre volumi di tutte le manifestazioni che il dottor Roll ha eseguito. Queste sono numerose fonti, poi giustamente ci sono i testi di Paola Giovetti, una grandissima amica di Roll, così come di Maria Luisa Giordano, di Giuditta Dembeck, perdonatemi. Sono vari i testi di persone che hanno proprio assistito e toccato con mano gli oggetti che Roll faceva comparire così dal nulla e li hanno riportati in dei testi, a mio avviso, fondamentali. Professore, un'ultima domanda prima poi di chiedere un commento agli esimi del DUSA e ai maestri, qualora volessero intervenire. Si faceva pagare il dottor Roll? Assolutamente no. E non richiedeva neanche nessun compenso da un punto di vista di favori, niente. Il dottor Roll, anzi, era una persona molto umile e le testimonianze dei suoi autisti negli ultimi anni della sua vita riportano che lui girasse per gli ospedali, andava a controllare i malati, stava con loro, li aiutava a superare gli ultimi momenti prima del trapasso, ecco, all'aldilà. Peraltro, tipico delle persone umili, il fatto di avere degli autisti. Esatto, certo. non un autista, ma no, degli autisti. Roll era una persona umile. Magari facoltosa, ecco, questo... Certo, era di una cultura... incredibile. Pensate che lui ha 3 lauree. Prima ha lavorato in banca, poi ha iniziato a fare il commerciante di oggetti d'antiquariato e poi ha intrapreso la carriera di pittore. Un pittore squisito, tra l'altro, ma un uomo di una cultura, di un'eleganza, niente a che vedere con personaggi dello stesso secolo, che veramente dei cenciai. Certo, dei ciarlatani. Dei ciarlatani, in qualche modo. Sì, sì. Ma mi volevo soffermare un attimo sul fatto che lui facesse questa sorta di servizio, no? All'interno degli ospedali, con queste anime che avevano bisogno di trapassare in qualche modo. Una sorta di funzione psicopompa. Esatto. In realtà anche lì non sappiamo con certezza che cosa facesse. Se facesse un semplice sostegno umano o se proprio aiutasse queste anime a trapassare, a trascendere il mondo sublunare, diciamo, perché è ovvio, e qui concorderete tutti con me, che il sistema copernicano è fallace. Certo, in tutte le sue ipotesi. Non lo sappiamo, anche perché lui faceva uscire tutti. Lui rimaneva da solo con il paziente e poi usciva, che il paziente in alcuni casi o era già trapassato oppure semplicemente era lì che ancora era sofferente. Questi saranno uno dei più grandi misteri che rimarranno nella mente del dottor Rollo, perché questa è una cosa bellissima. Ancora una figura con tanti misteri, tante ombre, pochissime luci. Però comunque qualcuno ha registrato questa pratica, ha saputo che lo faceva in qualche modo. Sì, sì, assolutamente, ci sono testimonianze appunto, in degli senso. Autisti, di dottori, di infermieri assolutamente anche. Sì, assolutamente. Anche degli stessi pazienti, perché poi successivamente qualche medium, insomma, facoltoso gli ha evocati e gli ha detto: ma lei quindi è stata col dottor Roll? Sì. Ok. E se lo dice il paziente. Vorrei un breve giro di commenti prima di mettere un pezzo e andare ancora più a fondo. Ma chiaramente purtroppo lo spiritismo non è il mio campo, ma da persona con qualche piccola velleità scientifica, volevo chiedere al professore, al di là degli esperimenti e delle esperienze prodigiose condotte dal savio dottor Roll, quale fosse, insomma, se si può dire, la teoria, la dottrina, il sistema a cui faceva riferimento. Stiamo parlando dunque di un'impronta teosofica, oppure possiamo ipotizzare, come dire, suggestioni di tipo alieno medianico? Dove andava a sbattere la testa il saggio dottore? Qui si apre lo scrigno di Pandora in tutti i sensi, perché il dottor Roll appunto non si faceva classificare come medium, perché i medium semplicemente mettono in contatto le persone ancora legate a questo mondo materico con i trapassati. In realtà il dottor Roll si faceva portavoce di una vera e propria filosofia teorica che aveva più in comune con l'antroposofia del ormai compianto Steiner che con la teosofia. Egli, tra l'altro, nella sua piena umiltà, ricordiamolo di avere degli autisti e anche vari servitori, ovviamente, ma perché non ci si faceva mancare niente, era un personaggio che metteva in chiaro subito una cosa: io non ho questi poteri. Lui si considerava esclusivamente un tramite tra questo mondo appunto empirico e il mondo degli spiriti, perché lui era convinto, e gli dobbiamo dare ragione, che ci fossero questi spiriti intelligenti che rimanevano molto spesso appartenenti a esseri umani. Quando si muore, secondo il dottor Roll, l'anima trapassa e raggiunge il divino, mentre lo spirito intelligente rimane a operare nel mondo sublunare. E il dottor Roll era capace di entrare in contatto con questi spiriti intelligenti e di usufruire dei loro poteri per poter appunto realizzare questi grandiosi prodigi. Una delle sue più grandi citazioni è questa, ovvero: io sono la grondaia che convoglia l'acqua che cade dal cielo. Ah, l'avevo sentita. Esatto. Anch'io, e l'abbiamo sentita la stessa persona. E non dovete concentrarvi sulla grondaia, ma sull'acqua che cade dal cielo. Era una persona di un'umiltà strabiliante. Vorrei chiederle una cosa. Suggestione che aveva dato, che ha dato un attimo fa il suo collega, l'assistente del professore, che diceva il perché non c'è una perché non potrebbe essere per esempio una, non potrebbe avere una matrice alienistico mediatico, no, come avevi detto alieno mediatica, alienistico mediatica, mi riferivo in particolare a certe esperienze collocabili nell'Ottocento, certo. Penso alla famosa medium Helen Smith, che mediante la scrittura automatica ci ha dato testimonianze preziosissime sulla letteratura marziana e sulla civiltà di Marte, un altro caso, ecco, interessante. Io volevo provare a ipotizzare questa cosa, se proviamo a dare per vera questa ipotesi, nel senso, perché, come fa lei ad essere sicuro del fatto che queste intelligenze, per esempio, a cui fa riferimento il professor Roll, non fossero intelligenze aliene? Beh, è difficile effettivamente dare una risposta certa. Facendo tuttavia riferimento anche agli scritti lasciati dal dottor Roll, c'era questa particolarità che ricorre sempre nella sua filosofia. Queste intelligenze non venivano da un mondo trascendentale, da un mondo spirituale, erano spiriti che erano frutto di quel mondo spirituale, ma che operavano nell'empireo. Quindi questa è una cosa molto interessante. Avevano soprattutto matrice umana, perché appunto durante molti degli esperimenti del dottor Roll, questi spiriti intelligenti si manifestavano molto spesso anche in veci di personaggi esistiti. Tantissime volte il dottor Roll si è usufruito dello spirito intelligente appartenuto ad esempio a Picasso per fargli dipingere un quadro, o a Napoleone per far materializzare il suo elmo o un bottone della sua camicia. Non si sta parlando di esperienza medianica, perché non c'era la manifestazione dello spirito della persona, ma dello spirito intelligente, ovvero della parte attiva della persona che dopo la morte rimane nel mondo terrestre per continuare a produrre certi fenomeni. Poi nessuno saprà mai se il dottor Roll è entrato in contatto con appunto intelligenze extraterrestri o alienistiche. Io penso che comunque potrebbe esserci entrato, ma magari era un qualcosa di talmente incomprensibile per la Vulgata che se l'è portato nella tomba. Perché il dottor Roll è così, era molto magnanimo e conosceva molto bene i limiti delle persone che non erano introdotte, che non erano state, come posso dire, appunto introdotte in questo mondo spiritista, ed era molto cauto e molto pacato. Infatti raramente i più grandi prodigi sono avvenuti raramente, perché lui era ben consapevole di poter causare dei veri e propri danni, degli shock fisici e mentali in chi lo vedeva nella sua forma, o magari aprire uno squarcio nel cielo e quindi distruggere e spaccare rovinosamente per sempre il tessuto della realtà. Assolutamente. Maestro Ricky Gianco, io ho paura, dobbiamo mettere una canzone, ma mettiamola e torniamo dentro il buco nero. Avanti. I want to live and I want to love.

popolo ebraico in questo deserto, che praticamente loro vengono guidati dall'angelo del Signore, e l'angelo del Signore di notte è un fuoco nel cielo affinché lo potessero vedere, e di giorno è nero. L'angelo del Signore, sì, quando scende nella tenda di Mosè, il popolo ebraico si deve allontanare, perché se no vengono bruciati e qualcuno ci è rimasto secco. Angelo del Signore è una navicella. L'arca dell'alleanza, in questo senso qui. Secondo l'interpretazione di Villino, questa arca dell'alleanza in realtà altro non è che un dispositivo tecnologico di natura nucleare. Poteva essere una papaya, come cantava un altro collega, quante gaia la papaya. Fa ridere, ma fa anche riflettere. Io credo che la storia sia la fucina di racconti fantasy più grande che c'è nel mondo. Sono terraformatori in qualche modo, sono ingegneri genetici in qualche modo, sono portatori di una conoscenza e di un fuoco di Prometeo che in qualche modo porta l'umanità su un altro livello ad un certo punto. Potete dormire tranquillamente con le porte aperte, perché sappiate, finché il Dusa rimane aperto, finché il Dusa continua ad esistere, i rettiliani non invaderanno mai, i rettiliani malvagi non invaderanno mai questa terra. Ci hanno riprovato. Non abbiate paura di aprire gli occhi nel buio, perché non è da lì che respirate. Un disastro, però funziona. Tentativi di sabotaggio. No, no, questo è il dottor Roll. lo fa. È tra noi. Esatto. Lo fa. Ho la bocca apertissima in questo momento. Allora, questo era il riassunto della puntata in cui parlavamo del professor Biglino. Madonna, quante avventure, voi del Dusa, il visiting professor col professore. Davvero, quante. Io sono la grondaia. Maestro Gianco di Biglino, cosa ci dici? Io volevo parlare di frequenze invece adesso. Maestro, introduciamo la frequenza. Il microfono è tuo. Che è nella grondaia dell'acqua che scorre, nella frequenza della grondaia che inonda tutti noi. La grondaia. Il maestro qui. La memoria dell'acqua mi viene anche in mente, trattata nella prima puntata di questa. Sì, professore. Siderale rubrica. Approfitto un attimo per raccontarle di questo esperimento, certo, che abbiamo fatto nella prima puntata di questa trasmissione, in cui abbiamo sperimentato la memoria dell'acqua. Abbiamo provato a mettere del riso in due bottiglie identiche con la stessa acqua, e poi successivamente abbiamo proceduto insultando una bottiglia ed elogiando l'altra, mettendoci in seguito due cartellini, in una scrivendoci odio, nell'altra amore, lasciandole a giacere per un mese. Le abbiamo riguardate un mese dopo e francamente erano successe delle cose incredibili, due reazioni profondamente diverse. Risultato strabiliante. Strabiliante, professore. Sì, ma queste sono le basi, proprio. Sì, vero. Perché voi ancora non siete arrivati, non siete arrivati allo scotch. Voi su Arrakis, memoria dello scotch, ormai, sì. Certo. La carta. Scusate. No, ma che frequenze? Frequenze, sì, dicevamo? Assolutamente. Roll, perché può raccontarci di frequenze alte, altissime, abbandonando per sempre quelle basse, bassissime. Io, il maestro qui presente, ha buttato un argomento, però io avviso. Si sta riferendo al momento in cui Roll scoprì il collegamento, questa teoria che collegava la quinta musicale con il colore verde. Erano gli anni 30, circa, del Novecento, e a seguito di questa incredibile scoperta il dottor Roll si ritirò in convento perché aveva perso la voglia di vivere. Poi, grazie alla sua magnanimità, alla sua capacità di trascendere, di capire anche l'etere divino, riuscì a superare. Ma io vi assicuro che quello che ha scoperto Roll è veramente qualcosa di terribile. Infatti ne sappiamo spaventosamente poco tutt'oggi, certo, come il multiverso. Certo. Pensate voi che il padre di mia madre, il padre di mia madre, un grandissimo teosofo di cui non dico il nome, ha provato a fare, a seguire passi delle ricerche di Roll, cercando di capire che cosa fosse questa teoria che legava il colore verde alla quinta musicale. C'è stato 30 anni, ha perso la sua vita per questa ricerca, e l'ha persa letteralmente, perché che storia tragica. Dopo, esattamente, l'abbiamo ritrovato in un piccolo appartamento di Chicago, in un loft di Chicago, praticamente anche lì da Agartha Chicago, già lì c'è qualcosa che non quadra. Anche questa è una condizione umilissima. Umilissima, assolutamente, un loft a Chicago. Aveva praticamente il suo corpo era completamente svuotato, non c'erano più gli organi interni, rimaneva soltanto l'apparato scheletrico, l'apparato muscolare, basta, e accanto al cadavere c'era questo foglio scritto con una sostanza verdognola, forse probabilmente ectoplasma, ma non si saprà mai, con su scritto basta, dobbiamo mettere un punto. Per favore, non proseguite le mie ricerche. Ok, io vorrei fare un attimo, dopo questa storia agghiacciante e a tratti, come dire, surreale, vorrei un attimo fare un come dire, un focus su, per diciamo, per i profani, per chi non ha la materia musicale così tra le mani. Che cos'è una quinta? Cos'è l'intervallo di una quinta musicale? Io, se posso, la lascerei a lei. Certo, maestro, sì, era una domanda che mi lei, stavo certo, ponendo. Certo. Che grazie. Maestro è dissociato. Vuole, sì, che, sì, lei, sì, vuole, sì, che lei la faccia qualcuno? Così almeno... È già fatto, grazie. Per la prossima, se mai... È una delle vite torniamo quindi alle frequenze. Torniamo alle frequenze, esattamente. Allora, un intervallo di quinta... per, diciamo, tecnicamente un intervallo di quinta giusta, dicesi quell'intervallo che, se poniamo come nota fondamentale, e quindi la nostra cosiddetta tonica, la prima nota all'interno dell'ottava, il Do, l'intervallo di quinta ci permette di andare direttamente sul Sol. Ecco che quindi, quando Gustavo Roll faceva riferimento al Sol, era perché aveva preso di riferimento il Do, come tutti d'altronde in Occidente. Esattamente. Ma, scusi, allora, parliamo anche della frequenza del colore verde, perché i colori, ecco, hanno frequenza propria. E che dove calcolata... sta il collegamento, però, esatto, tra il come dire, questa verde, frequenza del verde, e la frequenza il do, invece che del... è un sol, che è un sole, e siamo soli. E siamo soli. Quindi verde e quinta musicale. E quinta musicale. Questa cosa ha intrippato... un'associazione di frequenze. Mm. Questa cosa ha fatto strippare totalmente lì, di capo. Secondo me ha visto. Ha visto qualcosa, anche perché il colore verde è un colore che raramente ritorna nella tradizione magico-ermetica. Raramente. Raramente. Sì, perché sì, è sì, un colore che possiamo dire è frutto di due colori. Esatto. Forse, quindi, sì, in questo senso in realtà è un primario luce. Comunque come tutti i colori tranne tre. Allora, io... il verde, come tutti i presenti sanno e gli ascoltatori, di conseguenza il verde rimane nel mezzo della scala cromatica visibile ai nostri occhi, quindi il rosso è la partenza, il verde è il mezzo, il mezzo, e il blu è la vibrazione, la frequenza più alta. Il verde è l'equilibrio, tiene tutto, è il punto focale centrale. Ed è un primario luce. Primario luce. E sì, del resto la quinta colore musicale fa parte anche della triade con cui si costruisce l'accordo, la triade di base, e potrebbe essere considerata anche essa. Quindi è un filmare. Quindi si può dire in qualche modo che Roll abbia avuto a che fare, si sia, come dire, sia stato esposto a una verità, appunto, che aveva a che fare, come diceva giustamente il maestro Ricky Gianco, qui con un ritmo frattale, con una sorta di ritmo sì, che come dire, all'interno di quello che è il campo di misurazione delle frequenze, come dire, puro e divino, legge una sorta di, mi viene da dire quasi di prospettiva o di proporzionalità all'interno di questo senza limiti, aperta a tutto, connessa a tutto. Un qualcosa di primordiale, ma allo stesso tempo anche di futuro. Un qualcosa futuro. Di arcaico, ma di prospettivamente lontano. Potrebbe essere. Peraltro vorrei far notare l'evidenza inoppugnabile per la quale il numero di lettere della parola do è 2, il numero di lettere della parola roll è 3 e il numero di lettere della parola verde è 5. Incredibile, incredibile, incredibile. Ma effettivamente molti, incredibile. Molti pensano che roll sia un predestinato in realtà. Ma certo. Professore, quattro lettere nel cognome d'altronde. Ma questa legge sinestetica in qualche modo si applica anche agli altri colori, agli altri intervalli musicali? Cioè, se c'è una legge che unisce la quinta musicale, il verde, c'è anche una legge che unisce altri colori con altri intervalli? Non lo sapremo mai, non lo sapremo mai, almeno dal professor Roll, dottor, perdonatemi ogni tanto dell'lapsus, dal dottor Roll non se ne vince. Possiamo fare delle ipotesi, appunto, se il verde, che è il mezzo, viene in contatto con la quinta, che nella costruzione dell'accordo potrebbe essere considerato il mezzo, il rosso, come dice il qui presente maestro, è il primo colore, potrebbe essere in contatto con la tonica, il principio. E il blu con la terza? O la forse settima, c'è forse una diminuita, un'armonica minore? In questo senso è molto interessante. Io penso che, come dire, la sinestesia aiuta tantissimo a scoprire, come dire, la geografia degli intervalli, però mi viene anche da pensare che è un po' troppo soggettivo come termine, anche perché è chiaro che se noi diciamo il rosso è la tonica e il verde è la quinta, abbiamo delle coordinate, però il punto è che la tonica e la quinta via via possono cambiare, quindi non c'è una frequenza assoluta, ma c'è un come dire, un significato, un ruolo, c'è un quindi non lo so. Esattamente. Ecco, professore, però a me sembra che francamente non abbia prestato fede alle indicazioni di suo nonno, ovvero quelle di non proseguire nelle sue indagini. Beh, diciamo che quando l'ho visto, come posso dire, perché sono andato io a scoprire il cadavere, sono un po' morto dentro, per un periodo mi sono rifugiato in meditazione sul monte più alto della Terra, che sappiamo tutti essere il Monte Fato, giustamente, sì. E a meditare insieme al mio carissimo amico Krishnamurti VIII, però poi ho preso speranza. Ho preso speranze e ho deciso di continuare, anche se avrò un destino simile a quello di mio nonno. Io devo continuare, anche perché, non l'ho detto ma ormai posso condividerlo con voi, mio nonno mi disse una cosa molto interessante. Quando io gli chiesi: nonno, ti prego, dimmi qualcosa su questi studi che stai facendo per Yog-Sothoth, di qualcosa. E lui mi guardò e mi disse: quanti sono i colori primari? Io gli risposi: beh, 3. E lui rise e se ne andò. Postilla chiaramente per chi ci segue solo tramite il mezzo uditivo: la gamba destra del professore emette un odore nauseabondo, per cui io credo che la sua degenerazione nel mezzo ectoplasmatico sia già iniziata e prosegua. È dunque il momento di una canzone, perché abbiamo ancora 10 minuti e professore, lei ci aveva parlato di una data centrale nella vita del professor Roll. Diciamo soltanto un numero, perché poi la riprendiamo subito dopo il pezzo che stiamo diciamo, per mandare. Faccio una piccola premessa, sì? È uno degli eventi che è sempre poco affrontato nella letteratura sul Roll, ma forse è uno dei più sconvolgenti. 1949. Subito dopo, maestro Ricky Gianco, subito dopo, cosa stiamo per mettere? Stiamo per mettere il nostro amico Aphex Twin, che anche lui è stato nel buco nero, ma mi sa che non c'è uscito. No, quale maestro? Alberto Balsam. Thank you. Dottor Rolla, per favore, dottor Rolla, abbiamo capito. Se respiro. Puntata 4-3-2. Erano due puntate fa, c'era il maestro Ricky Gianco. Abbiamo parlato lungamente di frequenze, bellissima. Vi invito al riascolto. Base inadeguata per quest'ultima parte di trasmissione, ma d'altronde, come ho detto all'inizio, ci siamo scordati tutti, nel senso mi sono scordato tutte quante le tracce di sottofondo, eccetera, eccetera. Comunque siamo riusciti ad acchittare tutto lo stesso, mettendo una canzone degli Smiths, due sottofondi, due riepiloghi, e niente, e adesso Kelly Watch the Stars. Air. Un'altra parola magica, maestro? Moon Safari. Allora, volevamo sui numeri. 4-3-2 era un numero magico che vi invito ad andare a riseguire due puntate fa, mentre invece il numero magico di oggi qual è, professore? Beh, 7, voglio dire, no, più numero magico di quello. Il numero dello Spirito Santo, ma il non gatto. Era proprio quello cui ci aveva lasciato un attimo fa, in realtà. Era fatto 1949. Vabbè, allora, 7 è il numero magico. Però se fai 9... meno 4 più 7 meno 1 più 9 però perché 7 è il numero magico. Comunque, se vuoi lo fai tornare. 1949 per quelli della mia generazione che non hanno conosciuto Roll ma l'hanno vissuto, non è il numero magico, è il numero occulto. Non facciamogli guardare, non facciamole guardare le stelle a Kelly, diciamole tutto quanto. Perché allora facciamo questa contestualizzazione. 1949. Ci troviamo a, lo devo leggere perché sono un cane in francese, Cap-d'Antibes, questa cittadina francese. Il dottor Roll si trova lì in vacanza con una sua giovane amica giornalista, 23 anni, e conosce questo conte, conte Giorgio Cini, una persona distinta, con un grande carisma, giovane, vigoroso, che non aveva voglia di morire, non si azzardava a pensare ancora alla morte. Con la sua compagna, una famosissima attrice americana, Roll si avvicina, lo abbraccia calorosamente e a un certo punto sente un bruciore dentro di lui. Perché questa è la cosa strabiliante di Roll. Lui non era un sensitivo, lui non aveva visione, lui non sentiva odori, lui percepiva delle sensazioni che gli spiriti intelligenti gli trasmettevano, gli facevano vivere. Lui sente un bruciore, non sa per bene come mai, da cosa deriva questo bruciore. Parlando, il conte Cini gli rivela che il giorno seguente avrebbe preso il suo jet privato e se ne sarebbe tornato in Italia. E Roll gli dice non partire. Non partire assolutamente. Il conte Cini giustamente gli dice scusami caro Gustavo, ma io devo tornare a casa, c'ho il lavoro da fare, doveva fare, non lo so, un qualcosa, una riunione importante per il suo lavoro. Stiamo parlando di Giorgio Cini. Sì. Quello della fondazione a Venezia. Penso proprio di sì. Ma penso. Perché, le spiego perché. Perché noi non approfondiamo la figura di Cini, conosciamo solo il nome perché abbiamo paura di riscontrare in qualche decadimento cerebrale se approfondiamo questo concetto. È un po' come se fosse lo scritto di un Vangelo. Sappiamo queste cose, ma più in là non possiamo andare. Questi sono i misteri, certo, arrivati dal dottor Roll. La moglie del dottor Cini si fa giustamente prendere dalla paranoia, anche lei dice ti prego non partiamo, non partiamo, perché Gustavo sapeva, il dottor Roll sapeva che sarebbe successo qualcosa ma non sapeva ancora cosa, si sentiva questo bruciore nel petto. Il dottor Cini dice alla moglie se tu vuoi rimani, io parto. Il giorno seguente sale su questo jet per fare un saluto alla moglie che lo osservava da lontano, dice al pilota di fare una delle classiche acrobazie che si fanno. Nel fare l'acrobazia perde il controllo, un'ala si rompe e il dottor Cini, giovanissimo, crolla e muore insieme al suo pilota. Questo è incredibile. Questo rappresenta quanto il dottor Roll avesse già trasceso all'epoca il concetto di umano. Maestro, fra l'altro sì, ho controllato, l'uomo a cui è intitolata la Fondazione Giorgio Cini, che gli ha intitolato il padre subito a seguito della sua prematura morte. Ah, ecco, non penso. Vedi, vedi. Me l'ha suggerito... Sì, sì, certo, certo. Io vorrei fare una piccolissima postilla, cioè che queste sono cose che al DUSA si imparano nei primi tre moduli di chiaroveggenza strada. Sì, ma noi ricordiamo che siamo in una trasmissione divulgativa, stiamo facendo servizio pubblico, esatto, abbiamo d'altronde fare un po' di, prendiamo un po' contributi di, pubblici qui a Radio Bomba. Anche perché un conto è farlo noi, un conto è farlo il dottor Roll. Allora, comunque è incredibile, no, una cosa, io è identico, spiccicato, io ve lo giuro, cazzo, a James Bond. Cioè, Giorgio Cini è Sean Connery, guarda. Confermo. E fatti due lui. Domande su questo. Qualcuno li ha mai visti insieme nella stessa stanza? È impossibile, erano la stessa persona. Uguale. Ah, uguale, alza. Sorprendente, abbiamo tempo per l'ultima battuta su Adolfo Augusto Roll, che sia da parte sua, professore. Gustavo Adolfo. Chissà che cosa ho detto, infatti. Adolfo c'è. Augusto Adolfo. Augusto Adolfo. Abbiamo già dato, insomma, le millanta fonti dalle quali possiamo attingere informazioni, oltre che i libri, le varie interviste, eccetera, eccetera. Ecco, un film per chi non ha voglia di leggere. Così. Ma un film, qualche documentario. Esistono? In giro, sì, però è sempre meglio attingere dai testi, anche perché se posso concludere, qualche millantatore potrebbe dire che Gustavo Roll è morto, e invece no. Oddio, nuovo, certo. Sempre lui. Sì, sì. Come appunto vari autori, tra cui Maria Luisa Giordano, Giuditta Dembeck, nei scritti post 2000 specificano, è che Roll parla ancora ai suoi adepti, a chi l'ha conosciuto in vita. A me ricorda un po', se posso fare questa piccola, Fulcanelli. Beh. Te. Da questo punto di vista, sì, può essere, non come si dice alla carta, può essere. Mentre sì, vivevate gli spritz, esatto, di pietra, sì, filosofale, sì, sì, eh? Sì, sì, okay. di mercurio la carnagione del professore spiegata. Sì, però la pietra filosofale è un po' come l'aperol spritz, il mercurio invece è invece quello Zolfo e mercurio, quello whisky torpato, esatto. Perciò sì, Roll parla ancora, non a tutti, a me praticamente mai, nonostante gli stia dedicando l'anima nelle mie ricerche, ma... Proprio per quello. Ti apparirà in sogno. Forse, chi lo sa. Si fa desiderare. Anzi, scusate, l'ho visto passare poco, anzi, dalla finestra era lui. Sì. Se l'è perso di nuovo però il professore. Ectoplasma. Angolo cieco, quindi... Alla bisogna, professore, comunque, no, voglio dire, nel caso io la prego sia buono e venga a informarci subito di questo incontro, certo, e raccontarci, sì, sì, tutto nel caso quanto. Le racconterò, sì, sì. Nel frattempo comunque la ringraziamo molto per la sua partecipazione. Ringrazio voi. Qui da noi, quando deve tornare ad Agartha? Ma mi faccio un attimo pensare, perché in realtà non avevo programmato il ritorno, anche perché sa, arrivare ad Agartha è difficile, però io che ci abito ho le corsie preferenziali, quindi Freccia Rossa, beh, un paio d'ore, bene, bene. Poi basta aprire un portale interdimensionale. È fatta, certo. Lo speriamo allora di averla di nuovo prima della fine della stagione, di nuovo qui con noi, nel caso non fossi ancora tornato, certo, ad Agartha. Ma si figuri, ma tanto io ho anche qui la casa vicino, quindi la casa vacanze qui vicino, sì, sì. Bene, ci abita molto... una mia prozia che anche lei fa cartomanzia, ecco. Molto bene, molto bene, molto. Speriamo anche di conoscere la figura di sua zia prossimamente. Mentre invece dal Dipartimento di Ufologia e Scienze Ellenistiche, qualche nota di stringente attualità o qualche ultima curiosità con la quale lasciarci? Il Dipartimento chiaramente da sempre interessato alla speculazione spiritistica, ma è assolutamente doveroso segnalare l'interessante iniziativa condotta dai nostri, se si può dire così, colleghi, vogliamo degnarli di questo titolo, facciamo così, facciamoli contenti, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica in collaborazione con il SETI Institute, che, come dire, per meglio studiare la possibilità di ricevere e decodificare messaggi alieni, hanno imbastito un'iniziativa di nome Assign in Space, con la quale viene simulato l'arrivo di un messaggio alieno sulla Terra. Vi consiglio di cercare su Google, trovate tutte le informazioni sul sito di Media INAF, che è appunto l'outlet di news dell'INAF, e consigliamo tutti di divertirsi a provare a decodificare il messaggio alieno che è arrivato proprio questa sera. Ci sono i Discord, tutti i link utili a questa cosa. Chiaramente un po' dispiace che i colleghi dell'INAF debbano ricorrere a questi mezzucci quando naturalmente noi al DUSA messaggi alieni li intercettiamo praticamente tutte le settimane, ma insomma si fa quel che si può, come si dice. Molte grazie, grazie anche del suggerimento. Sì? Chiaramente, mentre venivamo qua sul nostro Vimana, io e l'assistente abbiamo risolto, cioè abbiamo decodificato il messaggio alieno. Circa 15 secondi, per cui qualsiasi studente che abbia passato l'esame di xenolinguistica 1 può farlo in maniera abbastanza triviale, ma ci rendiamo conto che certe cose vadano fatte anche per i profani, ecco. Molte grazie. Comunque, alla bisogna, beh, vi contatteremo nel caso in cui non riuscissimo a trovare il risultato da soli, che tanto lo rilascerete, immagino, pubblicamente. Maestro, Ricky Gianco, io eccomi, vedo. Ecco, sì. Ci vediamo prossimamente, maestro. Prossimo. Abbiamo temi da approfondire. Rimarrò su questo canale nel buco. Su queste frequenze. Per tutti, rimanete qui con me. Fa caldo e si sta bene. Maestro Tani, noi che dire? Mentre voi decriptate, noi facciamo i cruciverba. Allora, in conclusione ricordo che chi ci volesse scrivere in diretta può farlo, no, non ha nessun senso farlo ora, l'avrei dovuto fare all'inizio e quindi niente. Posta Fatelo Wombat, lo stesso. Me ne sono scordato, lo dovevo fare all'inizio, me ne sono scordato. E allora postawombat@insiberia.net per chi non ci volesse, per chi ci volesse scrivere non in diretta, ma comunque ci volesse scrivere. Questa è Lezioni Universali di Esistenza, in onda ogni mercoledì su due, quindi fra due settimane. Vi mandiamo anche il bellissimo riassunto di questa puntata. Andiamo avanti a lungo. Viva, viva Radio Wombat. Alla prossima, grazie a tutti. Grazie professore, grazie davvero. Grazie, grazie. Grazie alla prossima e grazie a voi maestri. Tutti. Grazie. Prego. Urrà. Urrà. But this is unbelievable. We're going off Bravo Tango.